America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Tampa in Florida. Mario Platero. Mitt Romney ha vinto le elezioni di questo stato, lo stato del sole, the Sunshine State, con una forte maggioranza, il 46,4%. To the people in this room and to the people all over Florida, thank you tonight for this great victory. Avete sentito Mitt Romney qui a Tampa nel discorso della vittoria. La sua affermazione è stata schiacciante. Ha vinto con il 46,4% dei voti contro il 31,9% di Gingrich, il 13,4% di Santorum, il 7% di Ron Paul. Cosa ha detto Romney come simbolo di questa sua vittoria? As this primary unfolds, our opponents in the other party have been watching and they like to comfort themselves with the thought that a competitive campaign will leave us divided and weak. But I've got news for them. A competitive primary does not divide us, it prepares us and we will win. Mitt Romney ha detto ai nostri oppositori del Partito Democratico: piace pensare che queste primarie ci dividano, ma voglio dirgli, vi sbagliate, ci preparano allo scontro finale. È un po' lo stesso discorso che ha fatto avanti ieri, quando l'ho visto a Dunedin, un paesino poco lontano da St. Petersburg, dove Romney ha fatto finalmente un grande bagno di folla. Ecco, voglio proporvi alcune delle voci che ho raccolto per strada a questo rally per Mitt Romney. Yeah, I voted for Romney on Friday after the debates. He's a businessman and also was a governor, and I thought that was really important to get someone that was outside of D.C., where Gingrich has been there for the last 30 years. And, you know, he was part of Freddie Mac, and my house has depreciated 50% since I bought it in 2006. Io voto per Mitt Romney, dice questa signora, è un businessman, è stato governatore, un outsider a Washington, mentre Gingrich è stato lì per gli ultimi 30 anni. E poi lui, dice, era con Freddie Mac, lui intendendo Gingrich. La mia casa si è svalutata del 50% dal quando l'ho comprata nel 2006, dice questa signora. E in effetti qui in Florida il settore immobiliare ha avuto una performance disastrosa rispetto al resto del paese. Poi questa signora continua: e Freddie Mac ha avuto il suo ruolo in tutto questo. I'm for Gingrich, but I'm here because my wife for Romney, and I love my wife for 43 years. She might just change my mind. Questo signore si chiama Testo, un italo-americano, mi dice: io sono per Gingrich, ma sono qui perché mia moglie è per Romney. Stiamo insieme da 43 anni. Chissà, dice, potrebbe farmi cambiare idea. Il signor Testo è sposato con Lina Testa, originaria di Alvignanello in provincia di Caserta. A tutti i casertani che ci ascoltano, un saluto da una loro concittadina emigrata molti, molti anni fa in Florida. Io ero democratica, una grande democratica, ma io non sono lasciata democratica, loro hanno lasciato me, perché danno quasi tutto per niente. Invece Rami ha fatto tutto da lui stesso, lui e la famiglia, è un uomo di famiglia anche, c'ha una moglie, 4-5 figli, e allora per me la famiglia è importante. Queste chiacchierate le ho fatte prima del comizio a Dunedin, devo dire è stato un grassroots party, una festa di queste per coltivare la base, per coltivare i tipartisti, per coltivare il cittadino normale. E Romney ha cercato davvero di reach out, ha cercato di mettersi in contatto con questa base politica. Questa sua uscita è stato più un investimento per il futuro. E poi l'introduzione, la presentazione da parte del commissario per l'agricoltura dello Stato e del procuratore generale per lo Stato della Florida. Pam Bondi, our attorney general. Ladies and gentlemen, the attorney general of the state of Florida. Thank you. So are you ready for some real hope and change in America? Let me tell you, that's what we're going to get with Mitt Romney. It is my great honor to introduce to you the next president of the United States, Mitt Romney. Ecco, è interessante capire come Romney sia riuscito a ribaltare una situazione che per lui era molto complicata. Dove è riuscito a ribaltarla? Beh, in due dibattiti. Ho fatto dei reportage da questi due dibattiti, il primo a Tampa il 23 gennaio, il secondo a Jacksonville il 26. Sentiamo il punto cruciale a Tampa. You said you were paid $300,000 by Freddie Mac as an historian. They don't pay people $25,000 a month for 6 years. As historians. Qui c'è l'attacco a Gingrich su Freddie Mac. Lei ha detto di essere stato pagato $300,000 da Freddie Mac come storico. Nessuno paga uno storico $25,000 al mese. Questa è stata una frase, direi, che ha schiacciato completamente Gingrich, è rimasto senza parole. Sentiamone un'altra. Mr. Speaker, I'm not anti-immigrant. My father was born in Mexico. My wife's father was born in Wales. They came to this country. The idea that I'm anti-immigrant is repulsive. Avete sentito il tono, direi, duro di Romney? Non l'avevamo mai sentito con un tono così duro. Ha scoperto l'aggressività e dice: io non sono contro l'immigrazione, mio padre è nato in Messico, il padre di mia moglie è nato in Galles, sono venuto in questo paese da immigrati, l'idea che io sia contro l'immigrazione è repulsive, repugnante. È stata la trasformazione del candidato Romney che gli ha consentito di vincere la Florida. Romney, dopo la sconfitta della South Carolina, dovrà essere grato a Gingrich, perché senza di lui probabilmente non avrebbe dato fondo a questa sua energia, non avrebbe riscoperto questa sua vitalità aggressiva, indispensabile per poi scontrarsi contro Barack Obama. E dunque, di nuovo nel comizio di Dunedin, sentite cosa ha detto all'inizio, sempre attaccando Gingrich. You know, I know the speaker's not real happy, Speaker Gingrich. He's not feeling very excited these days. I know, it's sad. I think the reason he isn't doing so well is because of those last two debates, don't you think? He said he didn't do well in the first debate because the crowd was so quiet and made it hard. And then the second debate he said he didn't do well because the crowd was so loud. Dice: ho sentito che Gingrich non è molto allegro in questi giorni e penso che sia a causa degli ultimi due dibattiti. Questo è Romney che parla. Ha detto di non essere andato bene nel primo perché il pubblico era troppo tranquillo. Poi ha detto di non aver fatto bene nel secondo perché la platea era troppo rumorosa. Perché questa durezza di Romney anche nell'ultimo giorno della campagna elettorale? Beh, perché voleva vincere con una forte maggioranza per scoraggiare Gingrich. Davanti a sé, a questo punto, Romney ha un periodo piuttosto facile. Il mese di febbraio sarà suo, si combatterà in Nevada, dove vincerà, ci sono molti mormoni, si combatterà in Michigan, lo stato di suo padre, in Colorado, in Minnesota, stati che gli sono favorevoli. Dunque si arriverà al Super Tuesday, primi di marzo, soltanto con un dibattito il 22 febbraio, quindi avremo una pausa in questi dibattiti. In questo insieme di scontri politici, a questo punto Gingrich punta sul Super Tuesday, ci saranno alcuni stati del sud, cercherà di prendere quanti più delegati possibili dal Super Tuesday, che ne ha ben 466, ma credo che alla fine non ce la farà. Il vincitore che sta emergendo, l'ha detto anche Marco Rubio, e ormai lui ha detto ieri, chi vince la Florida vincerà la nomination, di fatto un appoggio indiretto per Romney. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo a Mitt Romney. Vi facciamo ascoltare il brano che l'ex governatore del Massachusetts ha scelto come colonna sonora della sua campagna elettorale. Born Free di Kid Rock. Da Tampa è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.